in realtà è importante leggere, cioè ci mettono tempo a fare queste analisi, no? Non sappiamo perché, evidentemente credo che non siano velocissimi nell'analizzare queste cose, ma non è questo il problema. Il punto è che si intravede una tendenza nel cambiamento, nell'affermazione di alcune violazioni di legge e nell'affievolimento addirittura dell'abbandono di altre, che va in corso ormai da qualche anno e che probabilmente sarà confermata anche dal 2015, cioè dall'anno in corso. Qual è questa tendenza? La tendenza è quella che vede prevalentemente i reati contro il patrimonio. I reati contro il patrimonio che si stanno allargando sono i borseggi, gli scippi. scusate questa gola che non si mette a posto. I borseggi, gli scippi, i taccheggi, i furti, questi si stanno sviluppando, si stanno affermando quasi tutti prevalentemente, anzi altrimenti cambierebbe il titolo di reato, senza aggressione alla persona, che invece è la rapina, e la rapina è in via di diminuzione, le rapine sono in diminuzione, mentre questi borseggi, scippi, taccheggi e furti sono in aumento. Questa è grosso modo la tendenza. Gli altri reati cosiddetti che stanno in grossa diminuzione sono quelli contro la persona. Questo è un bene, dato in Italia gli omicidi e le aggressioni contro le persone sono le più basse in rapporto alla popolazione d'Europa, dei paesi europei, e 0,8 ogni 100.000 abitanti, questa è la percentuale la più bassa d'Europa, quindi questo è un fatto positivo. In realtà, come noi sappiamo, però pare che tipo i giornalisti, quelli che scrivono sulla carta stampata, quelli che parlano in televisione, quelli che chiacchierano, in realtà ignorano questi fatti, perché non è che debbono portare analisi concrete su situazioni concrete, ma devono semplicemente lanciare allarmi che permettono di governare. Tutti e tutte abbiamo visto in questi giorni l'utilizzo dell'attentato a Parigi per militarizzare le città, creare cose che non hanno nessun senso, non hanno senso di prevenire altri reati, ma hanno un bel senso di aumentare i meccanismi di governo, cioè di controllo della popolazione. Il governo della popolazione è un concetto molto vasto, all'interno del quale c'è il controllo, però, perché il governo porta con sé il controllo economico, il controllo sociale, il controllo della popolazione intesa come consumatori, di quella intesa come produttori e così via, ma anche del controllo delle attività di trasgressione. Quindi per cui il 2014 è un anno caratterizzato con un calo in generale delle attività, non legali, illegali, extralegali, minori del 2013, che a sua volta era stato molto minore del 2012 e così via. Quindi c'è una tendenza che si sta fermando ed è abbastanza, come diciamo, comprensibile. Alcuni lo dicevano già prima che accadessero questi dati, una sorta di previsione che va fatta, che quando c'è quella che viene chiamata crisi, attualmente ormai è dal 2007 che è in corso questa crisi, cioè aumento del costo della vita, diminuzione del reddito per le classi proletarie, per le classi subalterne, per le classi basse, cioè per i poveri, chiamateli come volete, quelli che vivono di un magro salario e a volte manco di quello, perché sono stati licenziati o perché non trovano lavoro, la vita di queste persone sta peggiorando. E quindi è ovvio, era comprensibile che appunto la tendenza di questi settori sociali fosse quella di appunto di ritrovare in altri modi il necessario per vivere, e quindi i reati contro la proprietà sono quelli che tendono appunto a riportare un reddito nelle tasche di coloro a cui è stato tolto questo reddito violentemente, perché quando una persona viene licenziata perché l'azienda chiude, perché la banca che gli dà prestiti non dà più prestiti non ai lavoratori ma all'azienda, cioè al padrone, perché ci stanno vendite delle azioni, cioè tutta una serie di traffici veramente, che dire vergognosi a dire poco, che dire mafiosi ancora a dire poco, perché diciamo, i traffici che avvengono a livello di borse, di finanziaria, sono molto peggio delle più gravi per quanto riguarda le conseguenze delle persone delle attività mafiose. Cioè, l'attività mafiosa non è altro che un piccolo pezzo, un locale, in alcune località, dello strapotere finanziario, bancario, che devasta le persone. Però mentre lo strapotere bancario e finanziario delle grandi multinazionali finanziarie o bancarie portano sul lastrico milioni e milioni di persone, a volte basta impoverendo una zona, distruggendola, spostando, basta che spostino semplicemente i traffici di merci oppure delle derrate alimentari da una zona all'altra, una zona viene abbandonata, non può più vendere perché non passano i traffici lì, non può più vendere ciò che produce, quindi va immediatamente alla fame. Oppure chiudono una fabbrica che ha 10.000 persone dipendenti, o 20.000 o 30.000 50.000, e queste persone appunto spesso vanno alla fame. Quindi è molto più violenta, diciamo, l'aggressione finanziaria e bancaria che non quella mafiosa, che è altrettanto violenta ma è limitata. In genere toglie soldi, ma non è che riduce alla fame e quindi alla morte quantità così enormi di persone. Questo per capire bene la gravità del sistema attuale, che ha permesso che tutto il potere venisse preso appunto da questi grandi potentati di finanziari e bancari, che fanno il bello e il cattivo tempo sulla pelle della gente, non su niente. Ecco, qui questo quadro, che appunto viene chiamato crisi, che dal 2007 ad oggi viene chiamato crisi, e in realtà non è altro che un impoverimento voluto degli strati bassi, dei settori subalterni della società, per permettere dei profitti più alti dei grandi multinazionali, delle grandi aziende appunto finanziarie o comunque multinazionali, ha costretto persone senza salario, quindi senza reddito, senza nulla, a cercare di impossessarsi della proprietà altrui per campare. E quindi l'aumento i reati contro la proprietà, fatti appunto che sono il furto, e lo scippo, il borseggio, il furto in appartamenti, il furto, l'effrazione, cioè la rottura di vetrine di negozi per portare via qualcosa, questi piccolissimi reati, tutti reati che non presentano offensività nei confronti della persona, cioè non sono offensive nei confronti delle persone, che come diciamo invece sono veramente in calo. Negli ultimi 15 anni c'è stato un calo enorme delle aggressioni contro le persone, gli omicidi, come abbiamo detto, sono i più bassi d'Europa. Questo è il quadro che esce fuori dalle analisi fatte appunto su tutto l'attività extralegale del 2014. Dunque, questo è il problema. L'altro problema è quello della diversità territoriale di questa tendenza, che è generale, e lo vedremo tra un attimo. Another one for him to sing. This is a song about hard narcotics. before. About a girl named Annie. Her name was Amphetamine Annie. E allora 15:15 appunto, ancora in diretta. Diciamo, come viene, come è ripartita per territorio questa osservazione della, delle attività extralegali nell'ambito dell'anno passato, del 2014, in rapporto agli anni precedenti? Ci sono delle concentrazioni, chiaramente, e anche qui, spazzando via come i dati prima nazionali che abbiamo visto, che appunto i reati sempre più sono quelli contro il patrimonio e non quelli contro le persone, quindi c'è una situazione di tranquillità sociale dal punto di vista dell'incolumità delle persone, quindi non c'è problemi di sicurezza, al contrario, a meno che, e qui però bisogna vedere ciascuno e l'ordine di valori che ha, a meno che non si intende per valore principale la difesa della proprietà e non la difesa dell'incolumità personale. Su questo lasciamo un punto interrogativo, perché leggendo le ultime leggi fatte, cioè analizzando le ultime leggi fatte, si vede che questo diciamo le classi dominanti in questa fase, quelle che poi hanno la loro forza nel Parlamento, nelle istituzioni statali e anche in quelle amministrative regionali o comunali, hanno più a cuore, prevalentemente però parliamo di quelle statali perché poi il Parlamento che fa le leggi, hanno più a cuore gli interessi della proprietà che non quelle delle persone. Per esempio, una delle leggi, ora non ricordo il numero della legge, però approvata nel 2013, ha aumentato di molto, fino a 10 anni, il furto in appartamenti, perché appunto si stava diffondendo e dichiarando il furto in appartamenti come elemento centrale dell'allarme sociale. Nello stesso momento ha ritoccato a ribasso la violenza contro le donne. Allora, un tentativo di stupro o uno stupro è punito con lo stesso numero di anni di un furto in appartamenti. Ditemi voi se condividete o meno questa impostazione, perché a volte quando si fa il ragionamento su una legge, i giornali parlano a vanvera, non sanno fare il loro lavoro, perché un giornalista dovrebbe dire, quando si discute una legge, quindi si portano i massimali in alto o si scendono in basso, dovrebbe parlare di quella legge in rapporto alle altre, in modo che il cittadino, il lettore, la lettrice potrebbe fare un confronto e dire, ma questo Parlamento è proprio, è lì mettere il proprio insulto, perché se quando invece non viene fatto questo lavoro, però è chiaro che quando se le persone fossero state informate e quando hanno ritoccato in alto i massimali per il furto in appartamenti, sì, qualche giornalista avrebbe potuto, ma nessuno l'ha fatto, fare il confronto con il ritocco al ribasso della legge invece dei massimali dei tentativi di stupro. Bene, ora, equiparare il furto di merci all'aggressione di una donna a fine di violenza, a fine di stupro, è chiaro che è abbastanza schifoso, quindi noi non condividiamo assolutamente nulla, ma proprio nulla, per esempio, di questo legislatore, che è poi il Parlamento italiano, attualmente formato da due camere, Senato della Repubblica e Camera dei Deputati, perché se a questa impostazione, che reputa che il tentativo di appropriarsi di alcune cose, oggetti, sia altrettanto grave, se non di quello di approfittare di violentare una persona, è chiaro che le distanze sono abissali, ma poi qui ognuno di voi e ognuna di voi può decidere da che parte porsi. Certo che insomma la discussione diventa difficile con chi ritiene, cioè penso che è impossibile, con chi ritiene invece giusto che il furto in appartamenti sia equiparato a un tentativo di stupro. Vabbè, questa è l'Italia, per cui con tutta la civiltà che pensano poi di voler esportare. Dunque, diciamo, così come appunto è accaduto con i dati, col più analisi dei dati a livello nazionale, i pregiudizi, qui la sicurezza non c'è. La sicurezza dal punto di vista di questi dati, considerate il 2014 e anche il 2015, perché non ci sono state variazioni, è in continuità. Gli anni che viviamo, dal punto di vista della sicurezza delle persone, dei cittadini e delle cittadine, sono i più sicuri che lo Stato italiano ha vissuto nella sua storia. chiaro questo, no? Oh, non vuol dire che siamo nel paradiso terrestre, ma vuol dire che è assurdo e probabilmente ha altri motivi il voler incrementare i massimali delle, di alcuni, dei reati contro il patrimonio. Perché il patrimonio, cioè, rubare una macchina, un furto qua, un furto là, non significa mettere in discussione la sicurezza delle persone, altrimenti qui le parole diventano vaghe, leggere, volano come le foglie degli alberi durante una tempesta. Vabbè. Quindi caduto questo pregiudizio, e quindi ragionate sui numeri, questi sono numeri che sono dati dalle procure, quindi riportati dal Sole 24 Ore, quindi i dati sono, non ci abbiamo messo mani noi, per carità, quindi sono esatti, perlomeno sono quelli obiettivi. Sul piano territoriale anche qui, no, uno direbbe, allora, quali sono le aree più colpite da questa attività estralegale? Il solito dirà, ma il sud, perché qua e là, ma che? Ovviamente non è vero manco questo. Le aree più colpite sono le due grandi città, Milano e Roma. Perché? E la spiegazione è quello che dicevamo prima, perché queste aree, queste due grandi metropoli, le più grandi in Italia, piene di tanta gente e fino a qualche tempo fa anche di numerosi posti di lavoro, quindi avevano richiamato nel proprio territorio persone che cercavano lavoro. Voi considerate che negli anni dal subito dopo il secondo dopoguerra, con la grossa industrializzazione del nord Italia, della Lombardia e del Piemonte, sono state richiamate appunto molta gente dal sud, andava a lavorare al nord. La famosa migrazione interna è stata enorme, ha trasferito 15 milioni di persone in un ventennio, in vent'anni, dall'immediato dopoguerra alla fine degli anni 60, ben 15 milioni di persone sono trasferiti dal sud al nord per cercare lavoro, e l'hanno anche trovato in qualche caso, perché appunto le fabbriche, la Fiat, ma non solo, le tantissime fabbriche dell'area prevalentemente lombarda e piemontese assorbivano persone. Questa è stata la grande migrazione. Considerate che qui si urla tanto alle migrazioni, però qui siamo a livelli di qualche centinaia di migliaia gli immigrati arrivati in Italia negli ultimi anni. In quel periodo 15 milioni di persone si trasmigrarono dal sud al nord. Ora voi direte, sì, ma erano tutti italiani. Questo lo dicono i cretini, scusate, proprio i cretini, perché che vuol dire? È chiaro che una persona che viene sradicata da un paesetto agricolo del sud e va a lavorare a Milano, a Torino, nelle fabbriche del nord, è chiaro che il trauma per questa persona, per tutti i suoi familiari, congiunti, amici eccetera, è notevole, no? Quindi non diciamo le solite baggianate stupide. Quindi non è vero che appunto la maggior parte dei reati avviene al sud, ma avviene appunto in queste due grandi metropoli, e questo è comprensibile perché poi sono quelli, diciamo, che avevano un grosso livello industriale o comunque lavorativo, attività lavorative molto sviluppate, che assorbivano manodopera. Quindi l'incremento metropolitano della città di Roma, pure questo si è moltiplicato negli ultimi decenni nel dopoguerra, molto numeroso è diventato, lo stesso Milano, Torino eccetera. Ecco, oltre che dal sud andavano anche dal vento, c'era questa grossa migrazione verso la Lombardia e il Piemonte, e non si capisce perché, se non valutando un grado di stupidità molto alto, alcuni del Veneto, i leghisti del Veneto, diventano contro loro da sempre territori di grande migrazione, sono migrati verso l'ovest tantissimi, andavano in Lombardia e in Veneto perché in Lombardia e in Piemonte perché in Veneto non c'era lavoro, e nonostante tutti quanti hanno un parente o più parenti che sono immigrati, questi del Veneto oggi si trovano ad alzare lo scettro dell'anti-immigrazione semplicemente perché hanno messo insieme due soldi scamuffi che nemmeno dureranno molto. Comunque questo per dire la stupidità delle persone, ma a parte, lasciamo la stupidità. Quindi sono Roma e Milano le due città che hanno maggiormente l'attività extralegali. Bene, insomma, questo è il dato. Ovviamente Milano ha il record, con 8.000 casi e Roma 6.400, sempre su ogni su 100.000 abitanti. La media italiana è 4.600. Nel sud è molto basso, ma perché? Perché nel sud c'è poco da rubare, essendo, come abbiamo visto, i dati generali delle attività extralegali rivolte contro il patrimonio sono persone che non hanno nulla, non hanno più nulla, probabilmente prima lo avevano qualcosa, perché se aumentano i furti e sono aumentati tantissimo in questi 15 anni del nuovo secolo, ma proprio tantissimo, c'è stato un aumento esponenziale, è proprio perché queste persone che prima non avevano necessità di attivarsi per la riappropriazione di cose, perché probabilmente con un misero salario ci campavano, attualmente improvvisamente si trovano a zero salario e quindi si dedicano al furto, che è la cosa più semplice, oppure allo scippo, so, queste piccole attività contro il patrimonio. La media nazionale quindi è 4.600, Milano 8.000 e Roma 6.400, quindi molto sopra la media. E nei paesi del sud è molto bassa invece l'attività contro il patrimonio, perché appunto c'è poco da rubare. Le altre, dopo Roma e Milano, quali sono le città che vengono seguendo questo criterio, che era quello delle aree che hanno richiamato tanta manodopera, perché prima si trovava lavoro, improvvisamente hanno chiuso e quindi hanno portato queste persone a zero salarie, e non è che uno dice vabbè mo rifaccio la valigia di cartone e torno al paesello, perché poi non c'è niente manco lì, e quindi quali sono quindi la Romagna, soprattutto l'Emilia Romagna, altra territorio, altra regione ricca che aveva con numerose fabbriche, posti di lavoro eccetera, richiamato tanti lavoratori, soprattutto le zone della costiera, Rimini e tutta la fascia adriatica, perché è molto industrializzata sul terreno del turismo, con flussi turistici molto grossi. In estate Rimini per esempio raggiungeva delle dimensioni da grande città, e quindi e ancora li raggiunge, e questa cosa porta sicuramente appunto anche la necessità a chi ha perso posti di lavoro di riciclarsi verso l'attività extralegale nei confronti della proprietà. A proposito dei flussi turistici, perché appunto queste attività, queste della zona tutta adriatica dell'Emilia Romagna, anche scendendo comunque dell'Emilia Romagna, è più attrezzata e quindi richiama grossi flussi turistici. Considerate, dice, però pure la gente lavora, certo, però chi lavora al servizio dei flussi turistici lavora 3-4 mesi l'anno, non di più, e il resto come campa? Domanda. Quindi o ci sono le varie attività stagionali che sono ripartite, d'estate faccio una cosa, in autunno un'altra, d'inverno un'altra, perché le attività erano tante, distrutte le altre attività, finiti quei 4 mesi, il problema si ripropone. Ebbene, quindi vabbè, insomma. Per esempio Matera, Enna, Oristano sono Matera sapete tutti dov'è, Enna nel centro della Sicilia, Oristano in Sardegna, ecco, sono tre città simbolo, no? Matera nella Basilicata, Enna al centro della Sicilia, Oristano in Sardegna, sono quelle che hanno il più basso numero di reati, sempre per 100.000 abitanti in percentuale, sono 2.500. Questi sono i dati. Tutto questo, ecco, e poi vabbè, se volete, sono usciti sul Sole 24 Ore, credo, mi pare di sabato, tipo, no, di lunedì probabilmente, sì, di lunedì, insomma lo trovate pure in internet, cercate reati del 2014, andamento, tendenza dei reati eccetera, insomma qualcosa trovate, a forza di battere cercate, ci sta, sì, ci sta tutto lì. Questo è un po' il quadro. Questo dato va letto per smentire le dicerie, i pregiudizi, le stupidaggini, intrise sempre un po' di razzismo, perché il razzismo e la stupidità vanno in comune accordo. Laddove c'è razzismo c'è anche sicuramente stupidità, laddove c'è molta stupidità spesso c'è anche il razzismo, come dire, no? È un sillogismo abbastanza di comprovata fiducia, di comprovato sperimentazione. Questi dati ci danno la possibilità di continuare un ragionamento. Thank you. Allora riprendiamo, anche se era bellissimo questo blues, alle 15.37 riprendiamo. Diciamo, da tutti questi dati eccetera, confermano, perlomeno per ora confermano, una linea di tendenza o un nuovo orientamento del sistema di controllo sociale. Sulla scarciante di quest'anno, sul quaderno della scarciante di quest'anno, che penso avrete modo di leggere con attenzione quando, se state fuori, quando la verrete qui a comprare oppure a prendere nelle iniziative che ci saranno, la prossima immediata è quella l'11, cioè venerdì 11 al Forte Prenestino, e poi via via tante altre che potete leggere sul sito di Radio Onda Rossa. Bene, scrivevamo, alla diminuzione della spesa sociale, quindi il welfare, quello che si chiama stato sociale, eccetera, alla diminuzione della spesa sociale corrisponde l'aumento della spesa sanitaria e soprattutto di quella penale. Questo è un dato riscontrato dagli economisti da tempo, tutti gli osservatori economici valutano questo andamento, cioè quando uno Stato, o anche più Stati, in questo caso è stata mondiale, la diminuzione della spesa sociale per il welfare, diciamo quelle che sono spese sanitarie, per la salute, la pensione, cioè la diminuzione della spesa sociale provoca sempre, ma l'andamento nel tutto il Novecento è stato così, si riscontra con un aumento della spesa sanitaria, perché le persone si ammalano di più, e anche di quella penale, soprattutto di quella penale. È chiaro, risponde al ragionamento che facciamo prima, l'abbattimento dei salari o l'azzeramento dei salari dovuti appunto a chiusura di fabbrica, disoccupazione massiccia eccetera, produce un aumento della spesa penale, perché queste persone ovviamente, dovendo mettere insieme il pranzo con la cena, devono praticare azioni contro la proprietà, cioè impossessarsi della proprietà altrui, quindi commettono il cosiddetto reato, quindi le forze dell'ordine, processi, galera, tutto questo impiccio che è molto costoso. D'altronde l'andamento, ancora leggiamo da Scarceranda, d'altronde l'andamento dei modelli punitivi e quindi del carcere sono regolati dall'andamento del rapporto capitale-lavoro, ossia dalla necessità del capitale di aumentare lo sfruttamento del lavoro, quindi della repressione e della incarcerazione. L'impegno repressivo in questi ultimi decenni ha tenuto d'occhio non tanti conflitti organizzati sindacalmente o politicamente, ma prevalentemente le azioni singole o collettive di attività estralegale, il cosiddetto disordine sociale, che si è manifestato con lo sviluppo della cooperazione diffusa delle attività illegali nelle grandi città. Come vedete, la previsione è stata riscontrata dai dati, non legate né inserite nella grande malavita organizzata con la quale il potere tratta affari. Abbiamo visto il formarsi di bande giovanili nelle periferie, la diffusione dei gruppi di ultra e le nuove forme di truffe nella rete informatica, eccetera eccetera. Il controllo del conflitto sociale e politico, al contrario, è stato delegato per tutto un periodo al movimento operaio istituzionale e anche al nuovo ceto politico che si è venuto a formare dentro al movimento in rappresentanza di settori di piccola borghesia tecnica e intellettuale impoverita, con il ruolo di mediare e ricondurre all'interno del sistema schegge che ne fuoriuscivano. Ma da qualche tempo le cose stanno cambiando. L'alto costo del sistema carcerario, circa 3 miliardi l'anno in Italia, ma ancor di più le nuove necessità del sistema capitalistico di portare il controllo nei territori, hanno proposto altre modalità di intervento repressivo, non del tutto nuove ma sostanzialmente rinnovate, tra cui spiccano la neutralizzazione selettiva e la prognosi di pericolosità. E poi spero che leggerete il continuo. Che cos'è la neutralizzazione selettiva? La neutralizzazione selettiva è proprio questo, poiché qui si tratta, come abbiamo visto, l'aumento, i dati che ci dicono, un aumento dei reati contro la proprietà, il tentativo di fasce di popolazioni povera di riappropriarsi di quello che gli manca e che non può, diciamo, in qualche modo che non può provvedere con il salario che non ha più, che gli è stato tolto o gli è stato talmente abbassato, e quindi se ne riappropria l'occupazione della casa, stante appunto i grandissimi, gli affitti altissimi, a un prezzo altissimo che non ci si può permettere, chi ha lavoro al nero, a part time, oppure lavora 3 mesi sì e 3 mesi no, eccetera eccetera. Quindi questo meccanismo che cosa produce a livello di popolazione? Produce delle persone che periodicamente devono fare delle attività extralegali per recuperare un po' di reddito per poter sopperire alle necessità. Questo è il meccanismo. Da qui appunto la diminuzione del welfare significa aumento delle spese penali, perché poi questo fa scattare il meccanismo poliziesco, i tribunali, il carcere e così via. Questo è la neutralizzazione selettiva, quindi significa che queste persone non è che fanno il furto una volta l'anno, quello lo può fare quelli che vediamo nei film. Ricordate quando eravamo piccoli, vediamo questi film, questo gruppo di grandi rapinatori che rapinavano la più grande banca d'Inghilterra o degli Stati Uniti o di quell'altra, facevano talmente tanti miliardi, diventavano immediatamente miliardari, che non erano più costretti ad andare a continuare a fare la mina. Avevano fatta gli bastava per tutta la vita a loro e ai propri discendenti. No, qui siamo già persone, l'abbiamo letto, no? Gli scippi, i furtarelli, sono cose che ti permettono di tirare avanti 15 giorni e poi devi riprendere quell'attività. E quindi questo produce un meccanismo di cosiddetti soggetti chiamati soggetti che messi insieme si chiamano settori sociali pericolosi o classi pericolose, cioè gruppi sociali chiamati pericolosi perché la loro sopravvivenza è data dalla pressoché continua, abbastanza frequente commissione di attività estralegali, cioè di furto, cioè si tratta di rubare periodicamente, perché altrimenti altro modo non c'è per mantenersi in vita. E a meno che non dovesse cambiare, cioè questa disoccupazione sparisce, riprende a te, ma pare che al di là delle chiacchiere che fanno governanti e i loro servetti, in realtà pare che non siamo in quella fase, e forse dicono alcuni non ci saremo mai, ma lasciamo stare le previsioni future ma comunque non ci siamo ancora. I livelli di disoccupazione sono altissimi, i dati dell'OCSE dicono che la povertà aumenta, cioè la sacca di povertà aumenta. Allora, se aumentano, negli ultimi anni sono aumentati di più di 1 milione la quantità di poveri in questo paese, che cosa fanno? Come fanno questi a mangiare? È chiaro, e questo è il meccanismo. Allora, questo individua i settori sociali pericolosi, oppure classi pericolose, per i quali si tratta di individuare un meccanismo di controllo sociale laddove avviene l'aggregazione. Questa è la novità di questo meccanismo. Mentre il carcere serve più che altro per attaccare il singolo che è dedito a fare delle attività estralegali, però abbastanza forti, pericolose, la galera era nata per tutt'altri stessi, per imporre il disciplinamento dei contadini, andare a vivere la loro vita in fabbrica, ma a parte recentemente era volto a imporre alle persone singole quello di dire la deterrenza, di dire guardate che se violate la legge il tuo futuro lo passi in galera, e quindi cerca di te e tutti gli amici tuoi di non violare la legge. No, qui adesso il problema è che questi settori sociali sono costretti, per continuare a vivere, a praticare attività estralegali, quindi si pongono sul terreno di classi pericolose, settori sociali pericolosi, verso i quali si tratta di stabilire una strategia di controllo sociale. Quindi non tanto, non serve più il carcere per queste persone, serve invece un controllo sociale territoriale, perché queste aggregazioni di questi soggetti che poi praticano furti che avvengono territorialmente, si tratta di individuare questi aggregati, scomporli, mettere situazioni punitive differenziate l'un dall'altro, al limite se proprio, no, queste, per esempio in America questo percorso, e anche in Inghilterra è andato avanti da tempo, se individuano che sono una banda di ragazzi che praticamente il furto nei supermercati, mettiamo la cosa più banale che non crea problemi di sicurezza, però ce ne sono tantissime di queste forme in tutta Europa e non solo in Europa, parliamo di Europa perché l'abbiamo sotto gli occhi come dati, però questo è diffuso in tutto il mondo. Comunque in Europa, nelle periferie, nelle banlieue, cioè nelle periferie degradate, impoverite, si formano bande di giovani, di ragazzi che si organizzano per fare i furti nei supermercati e in altre cose. Bene, ora mettere in carcere tutta questa quantità di persone crea intanto un costo altissimo, non permette la continuazione di aggregazione a queste persone, continuano ad aggregarsi stando in carcere, E quindi quando escono, non è che possono avere tutti l'ergastolo, no? Quando escono si trovano ancora più affiatati per continuare quell'attività. Il problema è un altro, è cercare di scardinarli laddove nasce. Questo è il sistema del potere, di affrontare appunto la disgregazione di queste classi pericolose laddove avviene l'aggregazione, disaggregazione laddove si aggregano, ossia nei loro territori, e quindi utilizzando anche pratiche diverse. A volte individuano, questo in Inghilterra, individuano il capobanda, lo mettono in galera, tutti gli altri li mettono in lavori obbligatori fuori, per esempio in prova, l'affidamento ai servizi sociali, in semilibertà e così via, forme diverse, no? Che sono controllabili e disaggregati, cioè non possono più riunirsi tra loro. E questo è il meccanismo del controllo territoriale, diverso dal controllo carcerario, che si sta diffondendo perché è più effettivo, costa molto di meno e secondo loro, secondo i potenti, permette un controllo territoriale. Nel territorio hanno pensato, ragionato, ma i dati sono molto espliciti, non avvengono solo queste forme di aggregazione di bande giovanili che poi organizza il furto, ma anche il conflitto sociale avviene nei stessi territori. L'occupazione di case avviene lì perché lì c'è la necessità di occupare una casa perché non si hanno i soldi appunto per pagare gli altissimi affitti e così via, e quindi questo controllo territoriale dovrebbe permettere allora di controllare anche le forme di conflitto sociale che lì nascono e si sviluppa. Questo è il quadro che si sta sviluppando, lo seguiremo attentamente. Certo devono fare devono fare ancora dei meccanismi, per esempio devono fare una polizia territoriale, quindi questo si occupa anche il quaderno scarceranda di questo, quello del 2016, quello appena uscito, quindi se vi interessa potete leggere e trovare lì quello che vi serve. Dunque, questo è quanto riguarda il tema fondamentale. Un piccolo stacco e poi parliamo di altre cose successe questa settimana. E allora ancora in diretta, 15:50, siamo addirittura di arrivo. Allora c'è un'altra stupidità stupidaggine, come volete, che gira molto in questi giorni sui media, televisione, eccetera. Quello di dire, soprattutto se ne fa portatore quelli della Lega, di questa montagna di stupidità, quello di dire: mandiamo i detenuti stranieri in galera a casa loro, così risparmieremo soldi e ce li leviamo di torno. Ecco, e su questo per esempio ci fanno la campagna elettorale, il Salvini e tanti altri ci fanno la loro campagna elettorale, ma anche Forza Italia, questa destra si sta riaggregando, non spera di riaggregarsi, sta facendo la campagna elettorale. Beh, è una grande stupidità, chiaramente, no? Perché non è fattibile, per come dico, non è che sono pacchi, li prendi e li mandi dal paese d'origine. Ci sono tanti meccanismi, c'è una legge, che la Convenzione di Strasburgo del 1983, che disciplina questa materia, cioè la possibilità di spostare detenuti, persone arrestate in un paese, trasferirli al paese d'origine. Ed è complessa, ovviamente, come tutte le cose, le leggi che, come dire, che regolano questioni internazionali di diversi paesi. Intanto c'è da tenere presente che non tutti i codici penali sono uguali, quindi una persona proveniente dal paese X che si trova nel paese Y ed è stata arrestata e condannata nel paese Y, non è detto che lo stesso reato e gli stessi anni, diciamo la stessa punizione, sia la stessa anche nel paese X, cioè nel paese di provenienza, non è detto. Quindi se una persona sta scontando per esempio 5 anni di carcere nel paese Y, nel paese di arrivo, perché ha fatto un reato che nel paese di provenienza non è condannato, oppure è condannato a una pena minore, è chiaro che non può essere trasferito là da detenuto, perché lì non avrebbe senso scontare una condanna che lì non è prevista. Chiaro questo, no? E se, poiché i codici penali non sono per niente tutti uguali, ma nemmeno in Europa, figuratevi con il resto del mondo, quindi questa cosa non è possibile. Secondo, la Convenzione di Strasburgo, che disciplina questa materia di trasferimento dei detenuti dal paese dove hanno fatto, diciamo, la violazione a quello di origine, è chiaro che prevede. Ci vogliono due consensi, quello del paese d'origine, ovviamente, dice di riprenderlo, e quello della persona, perché la persona, ovviamente una legge non può dire il contrario, poi nella realtà purtroppo è il contrario, però non poteva dire che le persone sono dei pacchi, che li prendi, li metti su un aereo e li porti là. Ci vuole il consenso della persona di andare a scontare la pena, diciamo, a eseguire la sentenza nel paese di provenienza. Quindi questa cosa va, perché il consenso deriva anche dal fatto non solo del sistema punitivo, che non in tutti i modi in codice penale, quindi che non in tutti i paesi è uguale, ma anche nei sistemi di detenzione non sono uguali in tutti i paesi. Allora, quando si trasferisce una persona da un carcere, mettiamo questa in carcere a scontare la pena, dice mandiamola al paese suo, deve essere la Convenzione di Strasburgo dice che deve trovare le stesse condizioni di detenzione dal paese dove stava rinchiuso al paese dove dovrebbe andare a scontarle, le stesse condizioni di detenzione. Anche queste non sono le stesse, assolutamente molto diverse l'una dall'altra, molto diverse sono, anche in Europa. E quindi ci vuole il riconoscimento della sentenza da parte del paese dove dovrebbe andare. Il paese, in base al proprio codice penale, al proprio sistema di detenzione, di esecuzione penale, dovrebbe riconoscere la sentenza e la pena detentiva, e quindi accoglierlo. E poi ci vuole anche il consenso della persona, del condannato. Senza consenso del condannato non è possibile fare questa cosa, perché sarebbe deportazione, cioè una dei più gravi reati che uno Stato può fare. Uno Stato non può deportare, per esempio sapete che le norme di Ginevra, addirittura quelle di Ginevra, ma poi tutte altre norme vietano che una persona possa essere portata nel paese da cui è scappato, per esempio perché rischia o la pena di morte o sevizie, torture e maltrattamenti. Quindi se anche soltanto c'è il rischio di subire questa cosa, non può essere spostata lì dove subisce queste cose. Quindi, e ci vuole, quindi per questo è previsto il consenso del condannato. E quindi tutto questo meccanismo prevede un carteggio, questi due consensi del paese di origine, della verifica e del riconoscimento della sentenza e dell'esecuzione penale, cioè del regolamento carcerario, e poi del consenso del condannato. Ovviamente il carteggio per realizzare questo ci vuole molto tempo, è molto tempo ed è anche molto costoso, quindi questa cosa non è che si può fare così d'amblè, si prendono, si mettono su un aereo e si portano là. L'espulsione come misura alternativa, come alternativa alla pena, anche residua, superiore a 2 anni, questo è possibile farlo, perché con una legge del 2014 è stata positiva, ma questa rientra come miglioramento, appunto come alternativa alla pena, perché abbiamo detto in molti paesi da cui vengono immigrati alcuni reati non sono puniti così gravemente come in Italia. Non pensate che siamo i paesi più civili del mondo, questo spero che non lo pensiate davvero, se no chi ascolta fa questa trasmissione, non lo siamo. Per esempio, appunto, il furto in appartamenti qui è punito in maniera stratosferica e quindi in quel caso un detenuto può accettare l'espulsione come alternativa, nel senso che qui mettiamo è stato condannato per un tentato furto in appartamento a 5, 6 anni, 7 anni, beh, in quel caso li sta scontando, viene accettata la sentenza con riduzione della pena, cioè il paese lo può accogliere, quindi in questo caso lui è d'accordissimo, il condannato, perché viene portato, che so, dai 5-6 anni a un anno e mezzo, e quindi torna lì, fa altri 2 mesi e esce, perché appunto in alcuni paesi il furto in appartamento non è così ferocemente condannato come qui in Italia. Questo tanto per dire i livelli di civiltà, non siamo civili e per quello non possiamo sportare, a parte che sportare la civiltà è una delle più grosse baggianate dell'ultimo secolo. Ma soprattutto quando non c'è nemmeno un elemento minimo. Bene, questo è quello che volevamo dirvi in questa giornata. Noi stiamo avvicinandosi alla fine, sono le 15:58 e quindi vi vogliamo ricordare vediamo se vi facciamo sentire lo spot della, aspettate che dobbiamo trovare, non è mica facile. Allora, lo spot della, come diciamo, la prossima iniziativa di presentazione di Scarceranda e di dibattito sulla repressione, su questa cosa, perché queste cose che diciamo non è che vogliamo, oddio, diciamo queste cose perché vogliamo che, siccome le diciamo da questa radio, quindi ci prendiamo così l'autorità di insegnare, non vogliamo insegnare niente a nessuno, noi proponiamo dei ragionamenti, delle riflessioni su dati di fatto. In questo caso avete visto, siamo partiti dai dati, ma partiamo sempre dai dati, chi ascolta questa trasmissione lo sa, su dei dati facciamo dei ragionamenti che mettiamo alla discussione di tutti, in discussione critica, e questa è importante farla, senza sparare affermazioni così generiche che non dicono niente, invece ragionare, quindi questi, riprendere questi ragionamenti, svilupparli, criticarli, fare, e questo è il lavoro importante da fare per capire dove sta andando la repressione in questa fase e quindi insomma che cosa bisogna fare per difendersi. È chiaro che se la repressione arriva nei territori va da sé che bisogna fare qualcosa, perché noi stiamo nei territori per organizzare il conflitto, per organizzare le reti di sostegno, di solidarietà, e certo se arriva lì la repressione qualcosa dovremmo fare. Allora vediamo se riusciamo a mandare la cosa, eccola qua, dunque non è mica facile, eccola qua. Vabbè, comunque ve lo diciamo a voce venerdì prossimo, venerdì 11, ci sarà la presentazione di Scarceranda È uscita Scarceranda 2016. Scarceranda contro ogni carcere, giorno dopo giorno, perché di